Parlo come Bergoglio, ma non sono il Papa. Questo... Sara ci ha detto, e anche quando eravamo in preghiera, ha detto che Dio è vicino a noi. E io voglio condividere una parola, per me fu una conferma ascoltarla. Io voglio parlare sulla presenza di Dio e anche la sfida di vivere sempre sotto la guida dello Spirito Santo, nella presenza di Dio, perché Dio è presente in noi per mezzo dello Spirito Santo che Lui ha sparso nel nostro cuore. Amen. Molti anni fa io ho fatto una domanda al Signore se Lui era contento. Non ho coraggio di fare di nuovo una domanda del genere, no? Però in quel tempo, facendo una valutazione del mio servizio al Signore, io le ho fatto una domanda: Signore, tu sei contento con il servizio che io tento di darti? E Lui mi ha risposto con molto amore, mi ha detto più o meno così, parla in spagnolo anche Lui, no? Mi ha detto: sto contento, però qualcosa contro di te. Quando io ho ascoltato somigliante parola del Signore, ho tremato nel mio spirito e con un filo di voce nel mio spirito le ho fatto un'altra domanda: ma Signore, che cosa tu fai contro di me? E Lui mi ha risposto con molto amore e mi ha detto: sto contento con te perché hai guidato, aiutato, incoraggiato molto bene ai fratelli a avere il rapporto con te. E sto contento anche perché hai aiutato, guidato, incoraggiato ai fratelli a avere il rapporto con, tra di loro. Però contro di te, che tu non hai guidato, aiutato a ogni di figli del corpo di Cristo a avere il rapporto con me. E in quel momento io ho capito che la responsabilità pastorale principale è guidare, aiutare, incoraggiare a ogni figlio di Dio a stabilire il proprio rapporto con la persona di Dio, essere consapevole della sua presenza nella nostra vita, perché arriva il momento dove dovremo affrontare le circostanze avverse, dove non ci saranno i pastori né altri fratelli, ma lo Spirito Santo mai ci lascerà. Sempre è accanto a noi, su di noi, in noi e sopra le circostanze che noi dobbiamo affrontare. Per questo io voglio incoraggiarvi a continuare essendo una Chiesa piena della presenza di Dio, della vicinanza di Dio, e questo significa vivere sotto la guida dello Spirito Santo. Il patriarca Tenagora, che credo sarà con il Signore, non lo so, però lui ha scritto qualcosa molti anni fa che ha un contenuto straordinario, parlando della presenza di Dio attraverso lo Spirito Santo, e lui ha messo questo titolo: senza lo Spirito Santo Dio è lontano, il Vangelo è lettera morta, la Chiesa è una semplice organizzazione, l'autorità è una dominazione, la missione una propaganda, il culto una vecchia vocazione e l'agire dell'essere umano una morale da schiavi. Ma nello Spirito Santo, la presenza di Dio, il cosmo è sollevato e geme nella gestazione del regno di Dio. Cristo risorto è presente, il Vangelo è potenza di vita, la Chiesa significa comunione trinitaria, l'autorità è un servizio liberatore, la missione è una Pentecoste, la liturgia è memoriale ma anche anticipazione e l'agire umano è divinizzato. Io non credo che sia casualità che è nata questa Chiesa. Anche credo che lo Spirito Santo ha scelto vostri pastori, i vostri ministri, per portare avanti l'opera qui a Modugno. E la sfida umilmente che io voglio farvi è che voi dovete continuare essendo un movimento dello Spirito Santo. Questa è la responsabilità della Chiesa nella ora presente. Viviamo in un tempo apocalittico, un tempo del fine. L'aumento, la crescita del male nel mondo, il compimento di tutti gli annunci che Gesù ha fatto sul tempo del fine, gli ultimi giorni, guerre, rumori di guerre, cataclismi, carestie, l'opera del diavolo che va avanti, la degradazione morale dell'Occidente. Ma in questo tempo la promessa del Signore è che lo Spirito Santo sarà sparso su tutta la gente e noi dobbiamo fissare lo sguardo nella persona dello Spirito Santo. Non dobbiamo avere paura delle cose che vanno a succedere nel mondo, nell'opera che il diavolo farà. Tutto è sotto il controllo di Dio. Dio è vicino a te in ogni circostanza. Oggi è vicino a noi e nessuna cosa potrà fare il diavolo che Dio non permetta a lui fare. E ci ha dato l'annunzio delle cose che farà. Per questo abbiamo una responsabilità che Paolo lo dice così ai Galati, Galati 5:25. Se viviamo dallo Spirito, camminiamo anche guidato dallo Spirito Santo. Questo è un modo di che il Padre sia vicino a noi. Corriamo il rischio di allontanarci dalla dimensione dello Spirito e cominciare a muoverci nella sfera dell'uomo naturale. Sto parlando cinese, no? Mi stanno capendo un po' strano, però sì. E molti movimenti, molti chiesi che sono nati in un risveglio spirituale hanno finito nella carne e oggi sono strutture morte, senza vita spirituale. E l'Apostolo Paolo ci avrebbe avvertito oggi con la stessa ammonizione che ha detto ai Galati. Ha detto così: o Galati insensati, chi vi ha ammalati voi che davanti a vostri occhi Gesù Cristo è stato crocifisso? Questo soltanto desidero di sapere da voi: avete ricevuto lo Spirito per mezzo delle opere delle leggi o mediante la predicazione delle fede? Siate così insensati, e questa è la chiave, dopo aver cominciato con lo Spirito, volete ora raggiungere la perfezione con la carne? Galate 3:1-3. E questo avvertimento apostolico rivela la tendenza umana a non dipendere dallo Spirito Santo. È proprio della natura umana avere il controllo, tutto previsto nelle nostre regole e pensieri. Ma lo Spirito si manifesta come vuole, quando vuole, con chi vuole e non chiede nessun permesso. E noi dobbiamo essere attenti all'opera dello Spirito Santo e non fermare il suo agire. Un pastore della nostra comunità di chiesa faceva un esempio, no? Prendendo il simbolo dello Spirito come la colomba, e che noi sempre diciamo che venga la colomba, che venga la colomba, che venga la colomba, e lo Spirito viene. Ma la colomba vola, si ferma su nostra testa, mentre io predico fa qualcosa, caccia fuori un demone, guarisce qualcuno, dà una parola a un altro membro della Chiesa e noi cominciamo a essere nervosi e diciamo: dobbiamo fare una gabbia d'oro e possiamo mettere la colomba dentro in questa gabbia d'oro, di modo che possiamo agire tranquillamente, senza. Non dovete fermare l'opera dello Spirito Santo, dovreste essere sempre aperte il suo agire nella nostra vita, perché questa è la garanzia che il Signore sarà sempre vicino a noi. Lo Spirito si muove secondo la volontà di Dio e farà sempre quello che Lui vuole. E il Signore Gesù ha detto questo al saggio Nicodemo: il vento soffia dove vuole e tu non odi il rumore, ma non sai né da dove viene né da dove va, così è chiunque è nato dallo Spirito. È il nostro dovere avere lo stesso atteggiamento che hanno avuto i profeti, i nostri antenati. In la Chiesa dobbiamo, come dice Pietro nella prima lettera, cercare di sapere, scrutare, indagare, domandare l'opera che lo Spirito farà in nostro tempo. E quando noi fissiamo lo sguardo nello Spirito, Lui risponde e agisce nella nostra vita. Amen? È un po' strano questa parola, no? Io sto aprendo il mio cuore, non sto predicando. E sto tentando di incoraggiarvi a avere questo rapporto più intimo con la persona dello Spirito Santo. Per avere una corretta visione dello scopo di Dio in questo tempo, dobbiamo seguire l'azione dello Spirito. Lo Spirito sarà versato, questa è la promessa, senza misura, su tutta la gente, de modo che si possa compiere lo scopo di Dio, preparando la Chiesa per la venuta in gloria del nostro Signore. E questo significa avere una comprensione ampia, che oltre gli eventi possa vedere in fede il restauro totale della Chiesa, una Chiesa senza macchia, senza ruga, senza difetti visibili, che riceverà al Signore per celebrare con Lui le nozze dell'agnello. Amen. Io non credo che Cristo fu sconfitto, il diavolo fu sconfitto. E io credo che quando il Signore tornerà, troverà una Chiesa di questa altezza, di questa gloria, e io lavoro, chiedo, prego e predico in questo senso. Quando uno vede la Chiesa in suo stato di oggi, divisa, con molto peccato in molti sensi, può pensare che la Chiesa non sarà mai come il Signore vuole. E quando il Signore torna non troverà la sposa che Lui desidera. Però il Signore mi ha parlato, io ho due figlie femmine, quando si è sposato mia figlia, la prima, molti anni fa, per la cultura nostra, un quartiere dove eravamo tutti i figli di migranti italiani, io dovevo portare mia figlia di mia casa al luogo dove celebreremo la nozze. E fu un sabato di mattina e mia figlia si è alzata, si svegliò e viene all'incontro di me e mi dice: papà, io non sarò bella, guarda, non ho potuto dormire. E se vedeva l'angoscia nel suo viso, suo volto, correva allo specchio e tentava di pettinarsi di un modo o di un altro, nessuna cosa le soddisfava. E alla fine, meno male che abbiamo la parrucchiera, la mamma, la portarono 2 ore. 2 ore. Io mi avevo messo la cravatta. Ho 2 cravatte, una nera quando devo andare a un funerale e una un po' più. Ma di pronto hanno portato la mia figlia davanti a me, radiosa, brillante, gloriosa, bellissima, con la stessa bellezza che ogni donna ha, soprattutto la donna cristiana, il giorno del suo matrimonio. E quando io l'ho visto così, risplendente come un lampi, piena di luce, Io ho visto la Chiesa che il Signore Gesù verrà a trovare. Ho visto la tua vita, la mia vita, purificata, santificata. Abbiamo tanti problemi, ma il Signore è sufficiente, potente, per santificare la tua vita, di modo che ogni giorno tu possa riflettere la gloria del Signore. Benedetto sia Dio. Amen. Non amerita il Signore un applauso per la sua grazia. La sfida che noi abbiamo è vivere nella carne o vivere nello spirito. Questo è il conflitto di base che ogni cristiano deve affrontare: camminare nello spirito o camminare nella carne. E l'apostolo Paolo lo dice, che non possiamo fare quello che vogliamo, ma quelli che sono guidati per lo Spirito Santo non si trovano sotto questa legge. Per questo noi dobbiamo camminare guidati dallo Spirito Santo. Gesù ha detto che lo Spirito è un altro Gesù che dimora in noi, che sta su di noi nelle circostanze, e che Lui è un avvocato, un difensore, uno che ci aiuta, che cammina davanti a noi, in retroguardia, a fianco. Io mai sono solo. Sempre Dio è vicino. Ma come è vicino, Sara? Come? Per mezzo dello Spirito Santo che dimora in noi, perché adesso il Padre è nel trono, il Figlio è alla destra sua. Ma lo Spirito di Cristo che procede del Padre e del Figlio dimora nel tuo cuore. Non so perché io non scoppio, no? Ma anche lo Spirito si è fatto umile e dimora nel tuo cuore, dentro di te. E pertanto, se viviamo dello Spirito, camminiamo anche secondo lo Spirito. E questo versetto della Bibbia, Galata 5:25, significa camminare diritto. È un verbo militare, di uso militare in greco. Camminare diritto, in fila, in coda, seguendo un conduttore. La guida dello Spirito non è una nuova legge di Mosè scritta, è seguire una persona, la persona dello Spirito Santo. E questo significa rapporto con lo Spirito, udire, parlare con Lui, di modo da ricevere il comandamento che Lui ci dà e poter obbedire Suoi comandamenti. Amen. Nella dimensione dello Spirito siamo nella presenza di Dio. Dio è vicino e la sua presenza fa la differenza. Non che non succedano cose cattive, avversità nella nostra vita, né nella presenza di Dio può accaderci la realtà più terribile, che non avremo paura della vita, della morte, del diavolo, delle circostanze, perché con Lui abbiamo la vittoria. Nel mondo avrete tribolazione, ma fatevi coraggio, io ho vinto il mondo. E quindi è necessario mantenere la consapevolezza della vicinanza di Dio, della sua presenza accanto a noi. Egli non ci abbandona mai, perché lo ha promesso: io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia: il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? E io aggiungo: il diavolo, le circostanze, il passo che è in Corea del Nord. Chi mi può fare se Dio è con noi, accanto a me? Quando siamo spiritualmente maturi, non importa che i problemi siano risolti o cambino le circostanze negative, importa solo che Dio sia presente. Nella presenza di Dio la più tragica circostanza perde la sua dimensione, diventa una situazione sopportabile, il danno, il dolore diminuiscono di intensità perché troviamo rifugio, conforto, aiuto nella presenza di Dio. Per questo il Salmo 91,1 dice: chi abita al riparo dell'Altissimo dimorerà all'ombra del Onnipotente. Il vero credente abita nella dimensione dello Spirito e nella dimora del Padre trova rifugio permanente. Amen. E se il Signore consente, come accade con molti dei nostri fratelli in varie nazioni del mondo, che noi dovevamo soffrire il martirio, offrire la vita in sacrificio al Signore per amore al Suo nome, Lui ci darà la forza e il coraggio per ricevere il battesimo di sangue. Per questo io non ho paura del futuro. E io credo sinceramente che anche nel mondo occidentale saremo perseguitati. E la persecuzione verrà per la nostra ubbidienza alla etica dei 10 comandamenti. E avverrà il tempo quando non potremo parlare del peccato, non potremo denunciare cose come la omosessualità e saremmo perseguitati. Ma in quel tempo la vicinanza di Dio, la presenza di Dio ci darà anche la parola per rispondere quando dobbiamo andare al tribunale e il coraggio per resistere la persecuzione perché la grazia di Dio è con noi. Per questo non dobbiamo avere paure del futuro, delle cose che dobbiamo attraversare. Amen. Vivendo nella dimensione dello Spirito possiamo ricevere le promesse del Padre. Quando Gesù parlava dello Spirito, parlava come la promessa del Padre. E che ha promesso il Padre attraverso dell'espargimento dello Spirito Santo? Una cosa che ha promesso è che lo Spirito Santo ci darà la grazia per essere santi. La crisi di questo tempo, al di là di essere sociale, politica, economica, è una crisi spirituale, perché non ci sono santi. Non ci sono santi. E il Signore ci ha chiamato per essere luce e sale della terra. E questo significa amare la santità. La santità è una parola che è cancellata. Anche, penso io, umilmente, non lo dico giudicando, ma anche nella Chiesa la parola santità fu dimenticata. E noi dobbiamo amare la santità, dobbiamo cercare la santità, dobbiamo predicare la santità, dobbiamo incoraggiarci uno all'altro a essere ogni giorno più somigliante al Signore Gesù, incarnare a Cristo nella nostra vita, di modo di poter riflettere la vita di Cristo nelle tenebre che ci circonda. Il Signore nel Sermone della Montagna ha detto, no? Che se la sale non sala, non serve solo di essere calpestata, buttata per gli uomini. E noi siamo chiamati a essere santi come Lui è santi. È santo. Lo Spirito Santo ci dà la grazia di modo di vincere la natura carnale, la tentazione, il peccato. Il Signore lo ha promesso per Ezechiele, per mezzo di vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo, toglierò del vostro corpo il cuore di pietra e vi darò un cuore di carne, metterò dentro di voi il mio spirito e farò in modo che camminerete secondo le mie leggi e osserverete, metterete in pratica le mie prescrizioni. Qui si riferisce alla potenza o capacità data dallo Spirito per sottomettere gli appetiti e gli impulsi della carne alla mente di Cristo Gesù. La grazia, io lo credo sinceramente, non è un assegno in bianco per peccare, non è un permesso per peccare, è una potenza per vincere il peccato e la tentazione. Io non sto dicendo che noi non pecchiamo, ma sto sempre, possiamo offendere Dio, ma io credo che se uno vive in rapporto con lo Spirito Santo, riceve questa grazia per vincere la natura umana, la natura carnale e avere vittoria sul peccato. Amen. Isano, dobbiamo credere questo, perché la legge dello spirito della vita è una dinamica, una forza, una energia che ci permette di superare la corruzione. È Dio che produce in voi, dice Paolo, il volere e il operare secondo il suo beneplacito. In greco usa il verbo energeo, non so come si pronuncia in italiano, che significa avere la potenza per agire, per operare, possibilità di fare. Questa espressione descrive la potenza che ci darà lo Spirito per compiere la volontà di Dio. Un grande risveglio che è successo in Inghilterra con Giovanni Wesley: hanno chiuso le cantine, il bar, la prostituzione ha finito, è venuto un battesimo di santità solo per la potenza dello Spirito Santo, perché Giovanni Wesley fu il primo pentecostale, penso io, e lui ha dato luogo allo Spirito Santo e lui ha parlato dell'intera santificazione, di cercare la santità, confidando nella potenza dello Spirito Santo, di modo che noi possiamo avere la vittoria. Amen. Nella dimensione, nella vicinanza di Dio, siamo trasformati di gloria in gloria alla immagine di Cristo Gesù. Questo lo dice anche l'Apostolo Paolo in Seconda Corinzi, che lo Spirito, come uno specchio che rifletta la immagine di Cristo, ci trasforma ogni giorno di gloria in gloria alla immagine di Gesù. E mi voglio fermare un po', se voi mi permettete farlo. Io fu qualche volta chimico, ho insegnato chimica nella scuola in Argentina e ho lavorato in un laboratorio medicinale. Mi piace tantissimo la chimica, perché è la più spirituale della scienza naturale, no? Fu fondata per gli alchimisti che cercavano una trasformazione spirituale. Anche oggi mi piace vedere le reazioni, perché parla della potenza di Dio, è un miracolo vedere come si compiono le leggi della combinazione chimiche, no? Io ricordo, lavoravo in un laboratorio medicinale, di mattina alle 9 ci davano 20 minuti per fare una colazione. E mi piaceva farmi una infusione di una erba somigliante al tè, ma che è propria di America Latina, che si chiama la erba mate. Mi piaceva farmi in un vaso di vetro trasparente, che si usa molto nel laboratorio, e mi piaceva fare questa per vedere la reazione, come, che succedeva, vedere il miracolo, no? E l'acqua è un liquido incolore, insapore, sì? Senza colore, senza profumo, senza odore e senza sapore. Così sono io senza lo Spirito Santo. Non ho sapore, non ho profumo, non ho colore. Ma io ricordo, e ti incoraggio a farlo se tu hai un vaso trasparente che può riscaldare, se tu fai bollire l'acqua e metti un sacchetto di erba dentro dell'acqua bollente, senza muovere niente, tu potrai vedere che intorno al sacchetto della erba comincia a spargirsi una nuvola di colore, e come c'è il vapore perché sta bollendo, se percepisce il profumo della erba, tutto il contenuto, tutta l'acqua si torna del colore della erba, continua essendo acqua. Così fa lo Spirito con noi, non è una possessione, viene a abitare in te e infunde il frutto dello Spirito, e si è una erba che contiene un principio, un medicamento. L'acqua ora è un medicamento. Noi abbiamo una chiesa nella frontiera con Bolivia, a 5.000 metri di altezza, nella cordigera delle Ande. A 4.500 metri io mi sono svenuto, perché non si può respirare, ti batti il cuore, si alza la pressione arteriale. Non dicano a nessuno, no? La moglie del pastore mi ha fatto un tè di cocca, una infusione di cocca, di foglia di cocca, e io sono risorto con questa foglia di cocca. Ho predicato una ora in messa, oggi non lo farò, però voglio illustrare, perché se tu vuole fare una infusione con acqua fredda, con acqua a 2-3 gradi, tu non puoi fare niente. Nella freddezza di una vita spirituale, senza preghiera, senza lode, senza comunione con la parola di Dio, è impossibile che lo Spirito Santo possa infondere i frutti dello Spirito nella tua vita. Per questo io vi incoraggio a stabilire un rapporto personale, giornaliero, con la persona dello Spirito Santo attraverso l'uso dei mezzi di grazia, la pratica della preghiera, la pratica della lettura della parola di Dio, la lode, che la lode non è solo qui, è tutti i giorni, nella tua casa, senza la tastiera, ma con il tuo cuore che loda al Signore, e di questo modo la grazia verrà su di te. Io vi incoraggio, per finire, a cercare questa comunione intima con la persona dello Spirito Santo, e questo incoraggiamento non ha una conclusione oggi. Perché? Perché tu non puoi vivere della grazia di un altro. Tutti oggi cercano l'unzione di qualche predicatore. Io la cerco anche. Però io so che non posso vivere di trasfusione di grazia, che io devo avere vita propria. Molti cristiani sono telefonino, cellulare. Se devono caricare costantemente, no? È un problema. Veniamo in chiesa a essere caricato, quando in realtà dobbiamo venire in chiesa a portare la grazia di Dio che abita in noi, e essendo insieme la grazia agisce di uno all'altro, e possiamo insieme crescere alla misura dell'altura di Cristo Gesù, essere più somigliante a Gesù. Per questo io vi incoraggio a valutare il proprio rapporto, il rapporto personale con Dio, e tentare di sviluppare questo rapporto e farlo ogni giorno più vicino al Signore. E così sarà verità che il Signore è vicino a te, che mai ti lascerà. E io credo che non è un fatto di 1, 2, 3, questa è una responsabilità di tutti i figli di Dio. E se voi potete crescere nel rapporto con la persona dello Spirito Santo, io vedo in fede questa Chiesa al doppio, crescendo in numero, in grazia e anche inviando missionari a altre nazioni del mondo per estendere il regno di Dio, e questo solo si può fare nella potenza dello Spirito Santo. Possiamo alzarci in piedi? Puoi tornare il volto e guardare agli occhi a tuo fratello, a tua sorella che è accanto a te? E adesso io ti incoraggio a dire a tuo fratello, tua sorella, tu devi cercare un rapporto più intimo con la persona dello Spirito Santo, di modo che Dio sia vicino sempre alla tua vita. Parla con tuo fratello, con la tua sorella, perché questo è l'incoraggiamento che noi dobbiamo farvi l'uno all'altro, farci l'uno all'altro. Da questo consiglio, cerca lo Spirito, e il Signore ha promesso che quelli che cerca trova, e che bussa se le apri la porta, e al che chiedi Dio darà la risposta, la benedizione, la grazia, e spargerà il suo Spirito nella tua vita. Amen. Gloria al Signore.